tutti grandi. Questa abbia così tu della mia più fuggi non potrà. E tanto mezz'ora stera. Sono cose così calore, la neve smanirà, e il suo cuore scatta e si porta, e canto mezz'ora sera. Thank you.